Da da da di da da da da da da da di da da da da da da da di da da da da da di da da da di da da da da da. Be my lover, wanna be my lover. Em có theo bao người thì em vẫn là tình anh đó. Những cơn